Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. Sapete tutti che cos'è un rapper? Bene, ne avremo uno fra poco in studio, Chiara, no? Sì, è vero, una puntata straordinaria di Mebius, ma non anticipiamo niente. Quindi i titoli. Ascoltare Mebius salva la vita. Vi raccontiamo una storia incredibile che ci è capitata. Se un asteroide puntasse verso la Terra, come potremmo fermarlo? La domanda della settimana è di Paolo da Ancona. Un rapper e un neuroscienziato si incontrano a Mebius. Un team di ricercatori americani ha studiato la creatività dei cantanti hip hop. E noi commentiamo la notizia con NC, il freestyler numero uno in Italia. Questa settimana, per la rubrica La clinica degli animali, vi raccontiamo la storia di Lilly, la cagnolina cardiopatica salvata dal suo futuro padrone. È un mito, è un personaggio che ha ispirato centinaia di imitatori, i quali non sono riusciti a brillare neppure come l'ultima scintilla della sua bacchetta magica. Non c'è trucco, non c'è niente dietro, ma se non sei convinto allora aspetta il bis. Poi mi vedi farlo e dici non ci credo, è quasi magia quando prendo il mic. A fare il rap sono un mago, ma a volte non me lo spiego. Non c'è trucco, non c'è inganno, ma a volte neanche io ci credo. Mi dicono sei una macchina, chi sono Terminator. È lui. È Enzi. Allora, vabbè, i giovani lo conosceranno, però la cosa straordinaria, che insomma credo che sia la prima volta che viene ospite a Radio 24 e credo che sia la prima volta che Enzi incontra un neuroscienziato. Faremo una sorta di esperimento nell'esperimento, andando avanti con la trasmissione ci verrà a trovare in studio, lo stiamo aspettando. Insomma, l'avete sentito, le prime note del suo nuovo singolo che si chiama Abracadabra dice proprio: a fare il rap sono un mago, ma a volte non me lo spiego, non c'è trucco, non c'è inganno. E proprio dell'improvvisazione del rap, che si chiama freestyle, parleremo tra poco con lui. Va bene, e per la teoria che si può cambiare completamente argomento nel giro di pochi secondi, adesso parleremo di un cane, no? Un cane che si chiama Sky, che bel nome! Golden Retriever. E adesso senti qua, ti racconto questa storia, anzi forse è meglio introdurre già il nostro ospite, che in realtà è un ascoltatore di Mebius che ci racconta questa storia particolare che è capitata. Buonasera signor Francesco. Buonasera. Lei è di Cagliari, se non sbaglio, giusto? Esatto, ecco, dell'Interland cagliaritano. Ecco, un paio di settimane fa, durante la nostra rubrica La clinica degli animali, abbiamo raccontato una storia, la storia di Teo, un cane che rischiava, insomma, di perdere la voce, o quantomeno bisognava scegliere se operarlo alle corde vocali e quindi fargli perdere la voce, ma allo stesso tempo salvargli la vita, oppure, insomma, cercare di curarlo in un certo modo. E ricordavamo che il proprietario di Teo aveva reagito molto male da questa notizia del veterinario, perché Teo con la propria voce aveva salvato la vita a questo proprietario. Ecco, per chi si fosse perso la puntata, comunque la può rintracciare sul nostro sito, c'è cioè in homepage www.moebiusonline.eu, ma da lì è nata una storia incredibile che sembra quasi finta, Federico, dalla coincidenza. Signor Francesco, lei in quel momento stava ascoltando la trasmissione. Esatto. E? In quel momento purtroppo Sky ha avuto un problema analogo a quello del cane che raccontavate in trasmissione. Quindi infatti, diciamo che raccontavamo che il cane aveva difficoltà a respirare, perché in quel caso Teo aveva una paralisi laringea, cioè insomma aveva la parte laringea bloccata e quindi il respiro non passava. Esatto, e proprio mentre in quel momento andava per radio la trasmissione, Sky ha avuto, diciamo, la sua crisi peggiore. E infatti era già un problema che si trascinava da un po', però proprio in quel momento, durante una breve passeggiata, perché ormai lui si poteva muovere pochissimo, ha avuto la crisi più brutta che lo ha quasi portato alla morte. Oh, santo cielo. Mentre Sky aveva questa crisi, il dottor Bussadori parlava per telefono di questo intervento che era possibile fare per risolvere il problema della paralisi laringea. Quindi, cioè, anche se i momenti erano molto drammatici, perché io cercavo di supportare il cane per quello che era possibile per aiutarlo a respirare, cercavo di non distrarmi dalla trasmissione per sentire innanzitutto i riferimenti del medico. Assolutamente. E poi se eventualmente poteva nascere da lì qualche suggerimento per superare la fase, diciamo, la fase più acuta. Infatti la fase è stata superata e a quel punto, in accordo con il mio veterinario, abbiamo subito cercato di capire come metterci in contatto col dottor Bussadori. E di fatto così è stato. Lei ha chiamato il suo veterinario sì. Ha contattato il dottor Bussadori, che era il nostro esperto in quel momento. Esatto. E cosa è successo? Praticamente un'equipe virtuale, esatto. Vi siete messi d'accordo, e cosa è successo esatto, soltanto il qualche cane, giorno fa? Il cane sì, non era più in condizione di essere trasportato da Cagliari a Milano, era proprio malmesso, poverino. Non poteva sì. viaggiare. E allora doveva viaggiare. Il dottor Bussadori si è reso disponibile insieme alla sua anestesista per raggiungerci a Cagliari, dove è stato operato nell'ambulatorio del mio veterinario, il dottor Russo, in equipe, e hanno fatto l'intervento venerdì scorso. Ecco, infatti una cosa freschissima, e quando il dottor Bussadori le ha detto che era andato tutto bene, è uscito dalla sala operatoria, lei cosa ha detto? Ha detto a Radio 24 che praticamente ha salvato la vita del cane, perché se non avessi ascoltato quella trasmissione probabilmente non sarei mai riuscito ad arrivare al dottore. Guardi, noi diciamo lei che siamo contentissimi. Ricordiamo, Sky sta benissimo, lei è appena rientrato sì. da una passeggiata, sì, non sì, accusa esatto. più nessun sintomo. Nessun tipo di problema, ha recuperato in tempi rapidissimi perché sono passati 6 giorni dall'operazione. Signor Francesco, noi siamo contentissimi di aver svolto questo lavoro, però ricordiamo che Sky è anche un cane bravo di per sé, perché aiuta lei e la protezione civile nella ricerca dei sì, dispersi. È un cane brevettato per la ricerca di persone disperse in superficie ed è uno dei 5 cani brevettati dall'Ente Nazionale di Cinofilia per la ricerca in superficie su tutto il territorio regionale. E quindi questo ci riempie di orgoglio, dobbiamo dirglielo. Grazie davvero Francesco. Grazie e continui a seguirci. Oh, lei e Sky ascoltate anche questa puntata, che c'è un'altra avventura. Sì, senz'altro. Non anticipiamo niente, ma ci sarà sempre il dottor Bussadori. Grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ciao Alberto, siamo qui per parlare di... di asteroidi. Ciao Federico, buonasera a tutti. È arrivata una domanda. È arrivata una domanda ed è arrivata direttamente con l'audio. Paolo D'Ancona, che ci interroga sugli asteroidi. Sì, ci interroga su come sarebbe possibile eventualmente deviare la traiettoria di un asteroide potenzialmente pericoloso. Non hai detto niente. Sentiamo la Sentiamo domanda. Sentiamo la domanda. La NASA ha annunciato l'arrivo di un asteroide diretto verso la Terra, previsto verso fine di quest'anno e febbraio 2013, come se non bastasse la profezia Maya. La mia domanda è, ma un'ipotesi tipo quella del film Armageddon, di riuscire a spostare la traiettoria dell'asteroide con un'esplosione nucleare o un missile, è ipotizzabile oppure dobbiamo solo sperare che l'asteroide non abbia abbastanza mira? Grazie. Ecco qua la domanda. Non credo che tutti abbiano visto Armageddon, però lì praticamente viene messa una grande carica nucleare dentro l'asteroide e boom, questo scoppia e diventa tanti piccoli asteroidi. Esatto, quindi è tutto da vedere. Tra l'altro Paolo è stato molto simpatico perché ci ha mandato anche una foto della possibile squadra di volontari che Sappiamo già chi potrebbe fare, quindi ci siamo portati avanti. Qualche politico, insomma, che adesso non nominiamo. Risponde a questa domanda John Brucato. Buonasera Brucato. Sì, buonasera a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori. Oh, lei lavora? Io lavoro all'Osservatorio Astrofisico di Arcetri a Firenze. Ok, quindi abbiamo 3 mesi di vita, insomma, cioè com'è sta storia? Beh, forse diciamo ne abbiamo qualcuno in più, abbiamo qualche speranza, non è così semplice poter capire se questi oggetti poi che ci passano così frequentemente poi accanto sono un vero e proprio pericolo per la Terra, e per questo diciamo che vengono messe in piedi una serie di osservazioni per cercare di conoscere tutti questi piccoli abitanti, questi oggettini che sono poi di qualche centinaio di metri, sono quelli più pericolosi, che si trovano appunto ad avvicinarsi all'orbita terrestre. Quindi insomma possiamo stare almeno sicuri perché per i prossimi anni non avremo problemi, almeno gravi, però è bene stare sempre a controllare, a monitorare questi oggetti. Intanto gli asteroidi sono quelli della fascia che c'è tra Marte e Giove, insomma, si fa riferimento soprattutto a quelli, ma ci sono anche altri oggetti, comete, cose strane che potrebbero arrivare. In realtà, diciamo, parte di questi oggetti che nominava in realtà si trovano in una zona ancora più vicina alla Terra e vengono appunto chiamati Near Earth Object, cioè oggetti vicini alla Terra, che appunto orbitano attorno alla Terra, questo perché stanno all'interno di alcune buche, diciamo, gravitazionali e quindi riescono a mantenersi in prossimità della Terra e questi sono quelli più pericolosi per i quali, diciamo, è necessario appunto stare attenti e monitorare continuamente, stare a guardare se qualcuno di questi si può avvicinare. Ce ne sono parecchi, ne sono stati scoperti fino adesso circa 10.000, alcuni di questi sono più pericolosi degli altri, non tutti lo sono ed è bene appunto capire qual è la vera natura e eventualmente se noi conosciamo e vediamo che c'è qualcuno di questi oggetti che pericolosamente si avvicina alla Terra, dobbiamo cercare di capire come poterlo deviare o come poter prevenire questo impatto. Ecco, allora, infatti Hollywood ci dice che basta mettere una bomba dentro. Non è così semplice, questo nell'estrema ratio nella quale ci accorgiamo veramente all'ultimo momento, perché questi oggetti sono veramente piccoli e non è facile, a volte è impossibile anche poterli osservare dalla Terra con largo anticipo, perché il punto è questo qua, cioè noi dobbiamo avere la possibilità di mettere in piedi una missione che possa raggiungere questi oggetti e in qualche maniera la soluzione che oggi è più accreditata è quella di poterli leggermente e continuamente però deviarli, quindi spostarli piano piano, dolcemente, e allontanarli, ecco, dalla nostra orbita. Come facciamo però? Ecco, come facciamo? Ci sono, diciamo, diverse soluzioni che oggi sono in studio, una di queste è quella di mandare una sonda che si va a appoggiare sulla superficie di questi asteroidi e questi razzi sostanzialmente debbono dargli quella spintarella necessaria proprio per deviare la loro traiettoria. Dilatto, certo. Ma perché, per quello che sapevo io invece, se gli mettiamo una bomba dentro e lo apriamo, otteniamo 100 asteroidi che arrivano addosso a noi. Esatto, cioè il problema è quello lì, perché chiaramente noi non spostiamo quella che è la traiettoria di questo oggetto, ma moltiplichiamo, perché lo frammentiamo in tanti frammenti che continueranno a cascare sulla Terra. Magari molti di questi verranno disintegrati durante l'impatto con l'atmosfera, ma altri, di cui non sappiamo poi le reali dimensioni e consistenza, possono colpire in molti altri punti la Terra. Quindi se Hollywood si prendesse come consulente un astrofisico, i soldi ce li ha, potrebbe anche essere meglio, lei dice. Certamente. No? Quanto tempo ci servirebbe per allestire una missione del genere? Cioè, fino a quanto possiamo stare sicuri se sappiamo che arriva fra un anno, 2 anni, 10 anni? Qual è il più o meno? Allora, se noi vogliamo, diciamo, programmare una missione che debba arrivare su un asteroide, poggiarsi sulla superficie e attivare dei razzi e spostare l'asteroide, abbiamo la necessità di programmare questa missione con decine di anni in anticipo, cioè abbiamo bisogno di perché proprio per la natura delle missioni spaziali è necessario capire che tipo di oggetto sta arrivando, qual è la dimensione, qual è la densità, qual è la struttura interna, quindi, diciamo, realizzare una serie, bisognerebbe magari preparare una flotta di missioni che devono partire una subito dopo l'altra, quindi avremo bisogno di molto tempo e anche questa deflessione della traiettoria richiederebbe anni, e chiaramente questo significa conoscere con largo anticipo l'oggetto. Bel lavoraccio. Se ci sta per arrivare davanti è un problema ben diverso. Va bene, basta asteroidi. Brucato, gira in queste ore la notizia della vita su Marte. Radio 24 ne ha già anche un po' parlato con altri esperti. La sua opinione? Dunque, trapelano queste indiscrezioni, ma ancora non si sa nulla, purtroppo, di ciò che la sonda, questo rover Curiosity, sta scoprendo durante questo periodo, ormai è d'agosto che si aggira sulla superficie marziana e sta conducendo delle analisi, appunto per quanto riguarda prevalentemente quali sono le condizioni di Marte per poter sostenere la vita. Questo è l'obiettivo della missione Curiosity. Ecco, adesso le indiscrezioni dicono che forse sono state trovate delle molecole organiche, che non vuol dire molecole biologiche, quindi insomma l'annuncio potrebbe essere questo. Volessimo fare ancora una volta un passo indietro, riparlare di meteoriti, le meteoriti nonostante, o gli asteroidi nonostante questi possano essere un problema per la sopravvivenza degli esseri viventi sulla Terra, però hanno anche nel loro passato portato quegli ingredienti necessari a far sorgere la vita sulla Terra. Per esempio la stessa acqua che noi beviamo è extraterrestre, cioè nel senso che è stata portata da questi oggetti. Quindi queste molecole organiche che sono presenti nelle meteoriti, negli asteroidi, sono anche cascate sulla superficie marziana, e quindi a questo punto è interessante capire se queste molecole organiche di cui parla la NASA sono quelle che provengono dalle meteoriti o è qualcos'altro. Già, certo, perché sarebbe la prima volta che vengono trovate. Probabilmente per fare questo tipo di annuncio certamente non si parlerà di queste molecole organiche che possono essere prodotte da processi non biologici, ma ci dovrà essere un legame con qualcosa di più interessante che magari appunto riguarda processi biologici. Insomma, aspettiamo lunedì, perché lunedì ci sarà l'annuncio in un convegno negli Stati Uniti, a San Francisco, e quindi vedremo che cosa ci diranno. Ma comunque, Brucato, guardi, noi vogliamo la foto di uno zampone, ecco, al presente. Un zampone marziano. Sì, ecco, una roba del genere, o un assegno postdatato, così, come dire. A quel punto, se vedi uno zampone, è difficile dire che non c'è vita su Marte. Grazie, Brucato. Grazie. Grazie a voi. Buon lavoro. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. E adesso all'esperimento ci siamo arrivati. Ecco, è arrivato con noi in studio Enzi per l'anagrafe Jari Ivan Vella. Ciao Enzi. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ci diamo del tu perché assolutamente siamo giovani. E allora, siamo partiti all'inizio con il tuo nuovo singolo Abracadabra, abbiamo detto non c'è trucco, non c'è inganno, e adesso lo faremo sentire. Assolutamente. Perché abbiamo invitato Enzi? Dobbiamo spiegarlo però, certo. Federico, perché la prima volta nel programma di scienza, la prima volta credo nella radio italiana che si faccia una roba del genere. Perché? Perché è uscito un articolo su Nature che ha studiato, dei neuroscienziati meglio, hanno studiato il cervello di 12 rapper nel momento in cui improvvisano con una base, con delle rime, insomma come fanno i rapper, anzi come fanno i freestyler. Per la precisione, ed è venuto fuori un significato interessante, e soprattutto ci dà grosse informazioni su come avviene lo sviluppo della creatività, soprattutto negli artisti. È una cosa un po' complicata, ma adesso piano piano lo spieghiamo. Io direi di iniziare con Enzi, che è venuto qui a trovarci e ci fa un esperimento dal vivo. Subito. Esatto. Dal vivo, perché allora possiamo dire, se sentite, qui ho un dizionario bello folto. Girerò a caso le pagine del dizionario e troverò delle parole. Una parola. Lui, sulla base, ci improvviserà le sue rime. Parola per parola. Esattamente. Dopodiché ci colleghiamo con un neuroscienziato, ovviamente a Mebius non può mancare, Giampaolo Basso. Intanto buonasera, Basso. Buonasera. Buonasera, Basso. Lei è ricercatore del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell'Università di Trento a Rovereto e, insomma, dovrà spiegarci che cosa succede nella mente di Enzi, che tra l'altro anche lui sarà curioso di saperlo. No, ma io vi dico la verità, sono veramente fuori luogo, nel senso che è la prima volta che, cioè non fuori luogo per l'esperimento, penso di essere la persona più adatta, però fuori luogo perché è la prima volta che mi viene fatta un'introduzione del genere per un freestyle e dico, ma veramente sto facendo una cosa così? Siamo seri? Sono troppo seria? Sei contento? Sì, sì, molto, molto, vabbè. Davvero. Vediamo l'esperimento, sono allora stata molto criticata per questo esperimento. Vabbè. Allora, andiamo con la base e io sparo la prima parola. Pino. Pino, Silvestre, le rime ti investe. Se parto per primo, sapete che ho sete. Do da bere, canto napoletano. Pino, Daniele. Spalla. Spalla, non l'ho mai fatta a nessuno. Guarda la spalla, quando arrivo spallate ti consumo. Faccio questa roba, io mi chiamo Enzi. Ho spalle larghe così tanto che sembro un pilastro del rugby. Rompicapo. Rompicapo, tipo cubo di Rubik. Mentre rompo culi, quando faccio freestyle tu non duri. Ovviamente un rompicapo tipo un gioco mentale. Quando arrivo sulla strumentale. Scienza. Scienza è quella che mi studia in questo luogo. Quando arrivo non pensare che non prenda fuoco. La parte occipitale frontale del mio cervelletto, insino con le rime sai benissimo che ci scommetto. Obbligo. Obbligo è quello che ti dico quando parto, quando riprendo con il micro. Obbligo, l'obbligo di non sbagliare in freestyle quando parto a fare queste rime che non si sa mai. Mebius. Mebius, programma radio, quando arrivo tipo un medium con le rime in radio. Qua parliamo di scienza, cosa pensi che sia? Insino flow binocolo, biologico, tecnologia. Bravissimo! Giuro che se mi scaldo vado ancora meglio. Lo so. Appena prende fuoco la parte, com'è che si chiama, abbiamo detto? L'amigdala. Ora il dottor Basso ci spiega tutto. Tutto. Applaude anche lei, Basso. Sì, moltissimo, no, è impressionante. È qua di fianco a noi, ma guardi... È impressionante. Sì. Oh, tra l'altro devo anche dire che hai un'abilità notevole di tirar fuori anche termini, concetti complessi, eh? Mica che te la cavi con robe di basso profilo. Insomma, ci provo, dai. Insomma, fuori... È un'ennesima sfida questa. Certo. Però non c'è trucco, non c'è inganno, nel senso che non è che tu avevi davanti un foglio, leggessi, o certo, fai esercizio, questo è chiaro. Beh, diciamo che come tutte le cose, come tutte le se vogliamo chiamarle abilità, ovviamente vanno affinate con il tempo, con lo studio, con la tecnica. Ci sono diversi esercizi, questo del dizionario è un esercizio che ho fatto tante volte per preparare. Mia. Però penso che comunque sia anche la capacità di leggere le situazioni. Ovviamente il freestyle, essendo così immediato e così trasversale, questa è la forza che poi lo rende così spettacolare. Ecco, senti, non so se è una domanda un po' indelicata perché è il tuo lavoro, ma che tipo di esercizio fai per fare queste robe, lo puoi dire? Oppure... Sì, assolutamente. Beh, diciamo che non ho mai nascosto quali sono un po' i miei esercizi stilistici per allenare il cervello. Beh, per esempio, questo è il dizionario, come abbiamo detto, uno di questi. L'altro è cercare di impersonificare delle persone diverse da te stesso. Magari facciamo delle sfide dove io sono, non lo so, un calciatore. E quindi cerchi di, ovviamente, impersonare. Esatto, e quindi il cervello fa, probabilmente, scientificamente parlando, fa il doppio lavoro, non lo so, adesso ce lo spiegherà il dottor Basso. Insomma, Basso, esattamente in America, su Nature, è stato pubblicato questo studio in cui 12 rapper hanno fatto esattamente quello che ha fatto con noi Ensi, e però erano studiati, cioè gli è stata fatta una risonanza magnetica. Se ci può spiegare che cosa si vede da questa risonanza magnetica, che cosa è venuto fuori? Sì, si tratta di una risonanza magnetica particolare, queste chiamate risonanze magnetiche funzionali, che permettono di vedere quali parti del cervello funzionano mentre una persona fa un compito, e quindi in effetti hanno studiato questi 12 rapper valutati come rapper professionisti, e quello che hanno visto è un po' quello che in parte ci si aspettava, cioè che non c'è una vera area specifica che è collegata alla creatività, ma quello che si vede è che la creatività dipende dall'orchestrazione di tante aree che lavorano insieme, e soprattutto la cosa interessante è che alcune di queste aree devono in realtà inibirsi, cioè ridurre un po' la loro attività per permettere ad altre aree del cervello di aumentare la loro attività e produrre prodotti creativi. E questo è interessante perché esiste proprio un network, una rete, come il cervello funzioni, cioè una parte si deve inibire per sviluppare di più l'altra nel momento in cui abbiamo un'abilità come quella di Ensi, insomma. Esattamente. E esattamente cos'è che è stato fatto a questi rapper? Questi rapper praticamente gli è stato detto, questo sarebbe interessante avere il giudizio di Ensi, che non so se lo sa, ma uno dei coautori dello studio è in realtà un rapper, questo Michael Eagle, che sì, è anche un rapper molto, molto famoso, e quindi lui è un freestyler, un neuro rapper, abbiamo un neuro rapper, esatto, un neuro rapper. E quello che hanno fatto, gli hanno dato 8 battute con un tempo ben definito, cioè con un ritmo ben definito, quindi sembra che il ritmo poi sia importante, forse Ensi stesso è fondamentale. Ecco, quanto questo sia fondamentale. Perché potrei farlo senza la musica, ovviamente avrebbe... Penso che lo studio venga influenzato dal fatto che bisogna andare a tempo, perché quando si fa freestyle, ovviamente oltre a pensare al senso compiuto, bisogna pensare all'andare a tempo, quindi alla musicalità delle parole. E questo è fondamentale. Gli è andato a una base con un ritmo ben definito, ed è stata creata da uno dei coautori. Sulla stessa base questi rapper dovevano ripetere un testo che a loro era ignoto, ma era stato creato da uno dei coautori, generato da uno dei coautori, e gli era stato fornito una settimana prima. Quindi loro potevano, diciamo, studiarlo e impararselo. Ah, quindi non era proprio improvvisazione. Aspettate, sono due condizioni, perché questo tipo di metodica purtroppo non si vede mai soltanto un'attività, ma si riesce a capire cosa succede, per esempio, nella creatività, comparandola a un'altra situazione nel quale il soggetto è meno creativo. Quindi hanno usato questa come una condizione di controllo. Ah, ok. Stessa base musicale, stesso ritmo, dovevano soltanto ripetere a memoria questo testo. E un'altra situazione identica, quindi stessa durata, stesso ritmo, stessa base, nel quale invece loro dovevano improvvisare. Non si capisce perfettamente dallo studio che tipo di tema gli hanno dato, ma gli davano probabilmente una parola o un tema sul quale loro dovevano improvvisare. Ecco, anche lei utilizza questi metodi, cioè la risonanza magnetica. Ci fa capire un pochino, cioè, in che posizione erano, insomma, erano dentro una macchina, non so, una roba un po' strana. Sì, questo è molto interessante perché sì, io uso la risonanza magnetica funzionale ormai da moltissimi anni per studiare i pazienti, per vedere come il cervello si modifica e come funziona il recupero dopo lesione cerebrale, come è organizzato il linguaggio. E la cosa caratteristica è che il paziente o il soggetto deve stare dentro una risonanza, dentro un tubo steso e non deve muoversi, quindi deve stare il più fermo possibile. Non facilissimo. Questo complica assolutamente le cose. Esatto, però hanno trovato un sistema, questa è la parte diciamo tecnologicamente interessante, hanno trovato un sistema per compensare i movimenti che normalmente ci sono durante l'esecuzione del rap. Sì. E quindi sono riusciti a eliminare, a togliere tutti diciamo i disturbi di segnale dovuti a questi movimenti e ad isolare quella che invece è l'attività cerebrale vera e propria. E quindi questa sia stata una parte tecnologicamente abbastanza interessante. Hanno fatto provare proprio i rapper in questa condizione, dentro la risonanza, per vedere che fossero in grado di fare questo, diciamo, questo tipo di compito anche in quelle condizioni lì. Ecco, senta, si studia la creatività, però qui abbiamo anche a che fare, glielo dico tranquillamente davanti a lui, con degli individui che hanno un livello di risposta creativa mica normale, cioè se ci mettiamo qui in 10.000 secondo me uno ce la fa. Si può anche studiare che cosa in particolare questo tipo di persone hanno come capacità creativa? Allora, questa è una domanda molto antica, cioè ovviamente la creatività è stata studiata e gli psicologi, gli scienziati ci stanno sbattendo la testa sopra da parecchio tempo. È abbastanza sicuro che c'è qualcosa che caratterizza la persona più creativa rispetto a quello meno creativa. Mm. Quello che non è chiaro è quanto in realtà la creatività sia legata ai parametri normali dell'intelligenza. Questo lo dico per il fatto che noi come specie, la specie umana, in effetti ha come una delle caratteristiche quella di essere la più creativa in assoluto, ed è proprio quando è nata questa creatività, quando si è sviluppata questa creatività, che probabilmente l'Homo sapiens ha fatto in effetti un balzo in avanti. Pensiamo ai disegni dentro le caverne. Certo. E non si sa ancora, c'è qualche indizio che forse qualche area cerebrale può essere un po' più sviluppata, forse c'è un aumento di alcuni neurotrasmettitori, si sa che la dopamina è molto coinvolta per esempio nel processo creativo, ma ne sappiamo ancora troppo poco per dire esattamente qual è l'elemento che caratterizza diciamo il soggetto creativo rispetto a quello non creativo. Beh, in fondo l'esperimento insomma, era anche un po' questo, di cercare di spiegare qualcosa in più. Se hai qualche domanda per il professore? Ma no, più che qualche domanda, qualche considerazione. Io posso parlare di una sensazione, cioè di quello che provo. Infatti, interessante perché spesso quando faccio freestyle riesco in qualche modo a focalizzare una parte della mia testa nella quale metto quello che voglio dire. Cioè penso che l'allenamento in generale abbia sviluppato dentro di me, come dentro gli altri freestyler, la capacità di riuscire a scindere esattamente quello che vogliamo dire nell'immediato da quello che vorremmo dire in un futuro prossimo. È un hard disk esterno. È come se avessimo un extension del cervello che ci permette di magari avere questa velocità. Infatti se io penso a come apro una rima, nel momento in cui mi viene la chiusura ho la capacità di costruire la frase per arrivare a quella chiusura, però io focalizzo il finale, non focalizzo mai l'inizio della frase. Grazie, perché l'inizio della davvero. Frase è quello veramente improvvisato, quello che viene dopo è una conseguenza di questo inizio. Vi potete incontrare, Enzi ha detto, assolutamente, fare esperimenti. Direi la prossima ricerca, Basso, la prossima sua ricerca. Grazie davvero, Basso, per la consulenza, grazie mille. Figurate, grazie a voi. Arrivederci. Grazie, Enzi, ci saluti. Dai tu il lancio del traffico. Sì, di idea originale faccio freestyle, non è il modo più classico per informare tutti gli utenti del traffico, di quello che sta succedendo nella strada in questo momento. Se sei al volante, frate, stai attento. Yeah. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Chiara Albicocco, le sue storie di animali questa sera ci porta in un'avventura disneyana. Basta dire che il personaggio si chiama Lilli, pensate un po' voi, è una cagnetta. Ascoltiamo. La clinica degli animali. Un'altra settimana, un'altra storia. Sono qui con il medico veterinario Roberto Bussadori e questa settimana vi raccontiamo una storia po' personale, dottore, perché raccontiamo del suo cane. Si chiama Lilli, è una cucciola, una femmina di 1 anno e 9 mesi all'incirca. Che razza è? È una Cavalier King Charles Spaniel, una razza che fu creata da Re Carlo in Inghilterra. È un po' la Lilli di Lilli e il Vagabondo, per intenderci, è quella la razza. Ora abbiamo capito tutti. Ecco, ha una storia molto affascinante Lilli, perché, adesso lei ce lo racconterà, è Lilli che ha trovato lei, in un certo senso. Sì, dunque, nel senso che io avevo una cagnolina, sempre una Cavalier King Charles, di 2 anni, che avevo perso, era deceduta per una grave displasia renale, una patologia congenita dei reni, nel febbraio del 2011. Succedeva quindi che nel giugno dello stesso anno, dell'anno scorso, quindi ho visto in sala d'aspetto un mio collega di un'altra città, non di Milano, con in braccio questo Cavalier King, assolutamente identico alla mia cagnolina, identico, assolutamente identico. E quindi mi sono avvicinato per chiedere qualcosa e mi ha detto che era... Questo veterinario aveva appuntamento con me perché la cagnolina era stata riportata al venditore perché i proprietari si erano accorti che era cardiopatica e necessitava di un intervento chirurgico. Quindi la venditrice, che è una persona molto seria, aveva pensato di far operare questo cane a sue spese e poi di trovare una persona che l'avesse adottata. Ho immediatamente risposto che non c'era bisogno assolutamente di nessuno che pagava le spese, perché aveva già trovato una persona che l'adottava ed ero io, ovviamente. Ho operato questo cane e l'intervento per fortuna è andato molto bene. Ho chiamato l'allevatrice per comunicarglielo e ho chiesto qual era il nome di questo cane, perché io non lo sapevo, e sono rabbrividito quando l'allevatore mi ha detto che si chiamava Lilli, esattamente come la mia cagnolina che era morta qualche mese prima. E tra l'altro mi raccontava fuori onda che Lilli, quella nuova, sarebbe nata quasi negli stessi giorni in cui l'altra è deceduta. Anche questa è una cosa molto importante. Sì, sì, più o meno nello stesso periodo, esatto. Anche questa è una cosa un po' da brivido, ecco. Ecco, ora torniamo invece nella veste scientifica e raccontiamo invece della patologia. In queste puntate ci piace raccontare la parte emotiva di qualche storia particolare, cani, gatti che arrivano nella sua clinica, però in questo caso entriamo nel dettaglio della patologia. Lilli aveva una cardiopatia, quindi aveva un problema al cuore? Allora, Lilli era portatrice di dotto arterioso persistente. Il dotto arterioso persistente è un canale vascolare che mette in comunicazione l'aorta con l'arteria polmonare. Questo canale è necessario nella vita fetale perché è necessario ad ossigenare il feto. Solitamente questo canale, questo dotto, si chiude con i primi atti respiratori dopo la nascita. Lo stesso avviene nel bambino, uguale nel cane o nel gatto, è la stessa cosa. Nel suo caso, per questa patologia, questa chiusura non è avvenuta e non è ancora del tutto chiaro perché non avvenga questa chiusura. Quello che dobbiamo fare noi chirurgicamente è chiudere definitivamente il flusso attraverso questo canale. Insomma, lei ha fatto l'operazione e Lilli possiamo dire che ha riavuto una vita normale, insomma, non ha più strascichi. Sì, assolutamente sì. La chiusura del dotto arterioso è uno di quegli interventi che danno una restituzione ad integrum del paziente, cioè il cane torna assolutamente normale. Noi facciamo chirurgicamente quello che avrebbe dovuto fare la natura, però una volta eseguito l'intervento il cane è assolutamente normale. Tra l'altro è una patologia piuttosto frequente, è una delle patologie cardiache congenite più frequenti, insieme alla stenosi subaortica e alla stenosi polmonare. Che sono? Sono dei restringimenti di queste valvole, quindi la stenosi subaortica è un restringimento della valvola aortica e la stenosi polmonare è un restringimento della valvola polmonare. E tutte queste sono patologie, abbiamo detto, cardiache e mi pare di aver capito che affliggono i cuccioli. Beh, allora, sono innanzitutto patologie congenite. Diciamo che non vengono sempre trattati da cuccioli, vengono trattati nel momento in cui si esegue una diagnosi. Questa può essere più o meno tardiva. Per quanto riguarda la stenosi subaortica e la stenosi polmonari, non sempre poi necessita di un intervento chirurgico. Quando necessita di un intervento chirurgico possiamo eseguirlo. Ecco, dottore, approfitto della sua preparazione e anche della sua esperienza, perché di casi ne vede praticamente tutti i giorni, per raccontare qualcosa agli ascoltatori circa appunto queste cardiopatologie. Noi non siamo abituati a pensare ai cani, ai gatti, come ad animali che possono avere ad esempio bisogno di un pacemaker. hacker, mi viene da dire. E invece fate anche questo tipo di operazioni, anche insomma complicate, costose. Sì, certo. Beh, purtroppo non c'è la mutua poi. E, però si eseguono le terapie adeguate ad ogni tipo di patologia. Sì, ha detto bene, anche pacemaker, impianti di pacemaker, ormai ne abbiamo impiantati parecchie decine, così come per edotta arteriosa persistente, una patologia che personalmente io ho eseguito in oltre 300 casi. E per quanto riguarda per esempio la stenosi polmonare che abbiamo citato, eseguiamo delle tecniche mini-invasive di cardiologia interventistica, cioè facciamo le valvoloplastiche polmonari con dilatazione a pallone, quindi in maniera intravascolare per via percutanea senza aprire il torace, che questa è una tecnica piuttosto avanzata e con grossi, enormi vantaggi per il paziente. Aspetti dottore, non so se ho capito, allora ho capito che è meno invasiva, nel senso che non dobbiamo più aprire il torace del cane, ma abbiamo delle tecnologie che ci permettono di farlo in maniera meno invasiva, però qualche parola in più ce la deve dire. Sì, certo, certo. Dunque, la cardiologia interventistica è quella branca in congiunto con la radiologia interventistica che prevede la terapia di alcune patologie senza l'apertura del torace o senza l'apertura del cuore in alcuni casi, e prevede l'immissione di dispositivi all'interno di grossi vasi passando per via percutanea, cioè con degli accessi intravascolari. Si possono introdurre dei cateteri, per esempio, attraverso l'arteria femorale per arrivare poi alla aorta e qui rilasciare dei dispositivi per l'occlusione del dotto arterioso di cui abbiamo parlato prima, per esempio. Ecco, i cateteri sono dei tubicini, cavi, in cui appunto è possibile far passare lo strumento di cui necessitiamo. Esattamente, sì, per catetere intendiamo dei tubicini che vengono immessi all'interno dei vasi e per poi raggiungere quello che è il nostro obiettivo. Quindi lei dice da una parte anche periferica, che potrebbe essere ad esempio una parte femorale, quindi la zona del femore, possiamo raggiungere attraverso i dotti, quindi attraverso le arterie, il cuore e in quel modo, attraverso questi tubicini, posizionarci esattamente nel punto in cui noi vogliamo senza dover aprire l'animale, quindi comunque fare un'operazione più invasiva. Sì, certo, come dicevamo prima, con grandissimi vantaggi per i nostri animali e possibilità di ripresa praticamente immediata dopo l'intervento chirurgico, in assenza di dolore. Dottore, questo tipo di interventi così particolari sono diffusi dal punto di vista veterinario o vengono eseguiti soltanto in alcune cliniche particolarmente specializzate? Beh, indubbiamente sono interventi altamente specialistici, però per fortuna ad oggi molte cliniche al mondo ormai si stanno organizzando per eseguire questa tipologia di interventi. Grazie dottore, noi ci risentiamo settimana prossima con altre storie di questo tipo, di cani, gatti e non solo. Anche Möbius questa settimana, come nelle migliori commedie cinematografiche, termina bene. La storia si conclude con un vissero tutti felici e contenti. Ci sentiamo fra 7 giorni. Buona settimana a tutti e a tutte.